aspettativa Per il clima noi abbiamo confermato quel che sapevamo. I paesi del G8 si impegnano ad un risultato, direi, estremamente ambizioso, meno 80% di emissioni CO2 entro il 2050. Credo che sia giusto. I paesi più ricchi devono fare di più dei paesi più poveri, ma è evidente che anche i paesi più poveri si devono impegnare, lo hanno fatto, affinché il riscaldamento del pianeta non superi i 2 gradi centigradi. Noi pensiamo che anche le economie emergenti debbano fare la loro parte, la Cina, l'India, l'Indonesia. Questi paesi sono pronti ad accettare il 2 gradi centigradi come livello massimo, non sono pronti ad accettare una riduzione enorme come quella dell'80% entro il 2050. L'Europa ha fatto ancora di più, perché ha fissato pure l'obiettivo intermedio, cioè i paesi dell'Europa hanno un ulteriore obbligo, meno 20 da qui al 2020. Quindi direi che con questo noi chiudiamo un buon accordo per il negoziato di Copenaghen a dicembre.